24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 19 minuti e 42 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo martedì 18 febbraio. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e alle ascoltatrici e alle ascoltatrici. In particolare lasciami dire una cosa che riguarda, diciamo, il ruolo delle mamme, perché questa è una notizia che mi ha colpito moltissimo. A Manhattan ci sono 3.000 mamme che sono scese in piazza e che fanno tutti i giorni un lavoro di informazione per salvare i propri figli dalla piccola criminalità. Mi ricorda molto le mamme coraggio di Napoli. Purtroppo non servì quella loro generosa esposizione, perché purtroppo sappiamo che il fenomeno droga, malavita, eccetera, non si è fermato allora. Però che parta da New York, di nuovo da Manhattan, questa mobilitazione di mamme, insomma, mi sembra un segnale attivo. Posso dirti che tra le tante mobilitazioni politiche, il fatto che delle cittadine scendano e facciano capire alla politica che cosa interessa veramente loro, mi sembra un segnale concreto. Per quanto appunto riguardi New York e non riguardi noi, però insomma, noi siamo stati i primi, perché a Napoli le mamme coraggio scesero in piazza 20 anni fa, o anche di più. Allora, è una giornata che si è aperta, o meglio si è chiusa ieri in tarda serata con le notizie che sono arrivate dal fronte bancario. Vedremo se avremo lo spazio già stamattina di dedicare un commento a tutto questo, insomma, e parlarne un po', ossia il lancio di un'offerta da parte di Intesa San Paolo su UbiBanca, l'idea è di andare a creare quello che sarebbe il settimo gruppo bancario europeo, la fusione tra la prima e la terza banca italiana. Questa appunto è un sarebbe segno importante, no? Perché si diceva da tempo che doveva esserci una unione di grandi banche. Si pensava sempre che Unicredit alla fine avrebbe fatto l'unione o con Commerzbank, ma sembra tramontata, o con SocGen, e invece il campione italiano, l'unica banca di sistema che abbiamo, Intesa San Paolo, si è mossa molto rapidamente. Sì, assolutamente. Segnalo, tra l'altro, c'è un buon commento, ovviamente, allora, per i giornali è arrivata molto tardi questa notizia, quindi di commenti ne trovate pochi. Sul sito del Sole 24 Ore c'è un buon commento di Marco Ferrando, che racconta come, insomma, alla fine questa mossa sia partita per tutta una serie di motivi. Innanzitutto sono due banche sane entrambe, e tra i motivi per i quali, insomma, per così dire, si è guardato all'interno per una fusione bancaria, anche il fatto che le fusioni transfrontaliere sono piuttosto complicate da perché non fanno da comprare agli italiani bancaria. Le banche, no, non è esattamente così. È abbastanza così. L'unione bancaria non è ancora completa. Ci sono delle richieste prova di requisito. Una banca tedesca, Simone, vai lì, dici: sono Simone Spezia, voglio comprare una banca tedesca. Perché tu ce l'hai i soldi per comprare una banca tedesca? Perché io non ho i soldi nemmeno per comprare un banchetto di legno. Allora, prima di andare a tutta la questione politica, parleremo con Ettore Rosato di Italia Viva per capire un po'. Ti ricordi, Maria, che Matteo Renzi aveva detto ai nostri microfoni: non faremo i Pierini di questa maggioranza? Invece un pochino mi pare che i Pierini lo stiano facendo. Come se ci avesse detto: ne parleremo con Ettore Governo, Rosato. Governo, state sereni. Ne parleremo con Ettore Rosato. Prima una storia che è apparentemente piccola, ma a nostro giudizio dà un po' la misura di come le norme spesso vengano fatte male, messe in atto male, fatte partire troppo rapidamente e poi incidano sulla vita delle imprese e su quella dei lavoratori che poi da queste imprese devono essere assunti. Parliamo di un'azienda che si chiama ITA, International Tobacco Agency, ha sede a Carbonera e siamo in provincia di Treviso, ed è in linea con noi Marco Fabbrini, che è l'amministratore delegato. Buongiorno Fabbrini, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Un'azienda da 280 dipendenti, giro d'affari 50 milioni di euro, commercializza accendini, cartine, prodotti per tabaccherie e cartolerie. Di fatto, Fabbrini, voi siete diciamo, l'unico settore delle famose microtasse, l'unico settore che è stato colpito a partire dal 1 gennaio, con le cartine appunto, no? Sì, siamo gli unici che hanno visto la tassa a partire dal 1 gennaio. Approvazione 27 dicembre, decreti attuativi 31 dicembre, partenza 1 gennaio. Tutti gli altri da metà anno in poi, noi da subito. Quindi con tutto il tempo di organizzarsi gli altri. Gli altri sì, noi sicuramente no. E avete rinunciato a 100 assunzioni a causa di questa... Già con l'arrivo delle prime notizie della finanziaria avevamo annunciato che probabilmente il piano che avevamo messo a terra di 100 nuove assunzioni avremmo dovuto rimandarlo. Dopo il primo mese e mezzo abbiamo deciso di rinunciarci definitivamente. Abbiamo una crescita del nostro fatturato su questo comparto del 60%, quindi non possiamo assolutamente pensare di assumere qualcuno. Fabbrini, i 27 paesi europei incassano 93 miliardi di euro tra IVA e accise sul fumo. Secondo lei è una, come dire, una situazione solo italiana quella di cercare di fare qualche euro in più sulle cartine, o è un'azione che riguarda tutta Europa? No, le cartine sono tassate solo esclusivamente in Italia, ed è questo un po' il problema, nel senso che noi dobbiamo rispettare ovviamente le norme italiane, ma dall'estero possono vendere tranquillamente in Italia senza nessun controllo, aggirando la tassa. Perché le nuove norme prevedono tra l'altro che queste cartine possano essere vendute solamente in tabaccheria, ho capito bene? Sì, assolutamente sì, su questo non abbiamo niente da dire, ma abbiamo un problema un po' più grave, che è quello che comunque chi ha comprato fino al 31 dicembre non tabaccaio non può più vendere, ma continua a vendere, perché ovviamente fino al 31 dicembre poteva comprare regolarmente, dal 1 gennaio non potendo più vendere deve comunque fare fuori in qualche modo le scorte, e poi non c'è nessun controllo sull'online. Sono stati fermati tutti i rivenditori italiani online, tutti, una buona parte, ma mentre tutti quelli che vendono all'estero continuano a vendere senza nessun controllo. Senta Fabbrini, il problema riguarda voi, il vostro settore, ma in realtà riguarda la miriade anche di piccole aziende, e vado giù nella filiera anche la miriade di piccoli negozi, perché è chiaro che gli over the top, facciamolo il nome, Amazon, rappresenta una tentazione per milioni di consumatori che a casa si ordinano quello che gli pare, non escono più e non vanno più nei negozi di prossimità. Sicuramente lei e con lei il suo gruppo di lavoro avrete fatto una riflessione su questo. Che cosa suggerireste a un governo per evitare che appunto ci sia poi non soltanto una problematica che riguarda, come è chiaro, la sua azienda e le aziende come la sua, ma in realtà tutto il sistema della filiera dei piccoli commerci? Beh, intanto prima di fare qualsiasi norma, di pensare un po' com'è la filiera di prodotto di quel prodotto che vanno a tassare, ed è la prima cosa, e poi vedere come, una volta fatta questa norma, fare i controlli. Cioè, invece qua in Italia, come al solito, prima si fanno le norme e poi si decide come controllare, quindi per un periodo di tempo vige la legge della giungla, chiunque può fare qualsiasi cosa senza che gli succeda niente. Per quanto riguarda invece i piccoli negozianti, in questo momento sono l'ultima ruota del carro, non sono sostenuti da nessuno e devono solo subire le conseguenze di queste decisioni governative. Da quel che ho capito, Fabbrini, qua c'è stato un tema non solo di legge, perché qua qualche ascoltatore dice un 60% di perdita di fatturato solo per l'aumento delle tasse. Non è solamente quello, è stato un problema di applicazione della legge, perché come al solito il tema di questo paese è anche come vengono fatte le cose, non tanto il cosa viene fatto. Noi abbiamo perso il 60% delle vendite perché dobbiamo pagare le tasse. Il mercato del tabacco per sigarette non ha perso neanche un euro. Questo vuol dire che noi abbiamo perso il 60%, il nostro maggior concorrente sta dichiarando di perdere circa il 50% delle vendite. Diciamo che probabilmente queste vendite sono andate nel sommerso. Ecco, questo è. Grazie Marco Fabbrini per essere stato con noi, amministratore delegato di International Tobacco Agency. Fammi dire una cosa all'ascoltatore che dice la retorica nazionalista della Latella mentre la Kellogg's viene comprata dalla Ferrero. Ottimo, infatti la Ferrero è una delle grandi aziende italiane che si può permettere delle acquisizioni, ma occhio, perché un conto è l'alimentare, fondamentale, ovviamente per la nostra economia, più ci espandiamo e meglio è. E un altro conto sì. sono le banche. Per quanto ricordiamo che UniCredit, per esempio, è una grande banca internazionale che di acquisizioni in Germania ne ha fatte. Fabio Tamburini, nostro direttore, direttore di Radio 24, del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor. Fabio, buongiorno, eccoci. Buongiorno a tutti. Cosa rappresenta questa acquisizione? O meglio, non è ancora un'acquisizione, è solo un'offerta sì. di intesa su Ubi. Ma io credo che sia destinata ad andare in porto. Penso che sia un'operazione da valutare positivamente. A noi le banche italiane, a partire da Banca Intesa, sembrano molto grandi. In realtà, se alziamo lo sguardo e andiamo a guardare soltanto in Europa, ci rendiamo conto che forse non siamo gli ultimi, ma non siamo neanche tra i primissimi. E quindi tutto quello che serve per far acquisire dimensioni più significative alle aziende italiane, a partire dalle banche, compreso Banca Intesa, credo che sia da salutare positivamente. Certo, è stata una sorpresa, ma devo dire per una volta una bella sorpresa. Direttore, possiamo far capire ai nostri ascoltatori perché è importante, non soltanto per chi va a accendere un mutuo, ma soprattutto per gli imprenditori in futuro, avere un grande istituto, un grande e solido istituto bancario italiano? È presto detto, vale per le banche, ma non vale soltanto per le banche. In un tessuto economico, in una economia, certo è importante che ci sia una vivacità del tessuto imprenditoriale e anche del tessuto bancario. Per vivacità intendo un tessuto di piccola e media impresa, ma è anche importante che ci siano dei grandi gruppi, perché i grandi gruppi sono quelli che hanno la capacità, la forza per fare un po' da ombrello all'intero sistema. Questo accade un po' in tutti, vale un po' per tutti i settori, ma vale per l'appunto anche per le banche. Un grande gruppo è quello che ha la massa critica per fare da battistrada e aprire gli orizzonti anche per il mondo della piccola e media impresa, certo vivace, certo competitiva, ma che non ha la forza, la massa critica per fare ricerca, per fare innovazione, per essere protagonista sui mercati internazionali. Quindi una grande banca è condizione importante affinché sotto si sviluppi un tessuto di iniziativa che poi avrà un segno positivo per l'intera economia, compresa l'economia delle imprese. Le imprese italiane sono imprese di taglia medio-piccola, hanno dovuto nell'ultima decina d'anni guardare con attenzione ai mercati esteri, perché lo stallo del mercato interno non poneva alternative. Certo, per andare sui mercati internazionali occorre avere dimensioni adeguate, occorre essere supportati da un sistema bancario forte, e quindi anche per la piccola e media impresa il fatto che cresca una grande banca italiana è un punto di forza non banale. Fabio, il tutto arriva in una fase complessa, per così dire, nel sistema bancario, possiamo dire, mondiale, nel quale i margini per le banche si sono ristretti a causa della politica, no? Del costo del denaro, che ormai dura da troppo tempo, il costo del denaro molto basso. È un elemento che gioca, no? in tutto questo? Il costo del denaro è perfino negativo. E ovviamente questo ha delle conseguenze importanti per le banche, importanti nel senso che mette a dura prova i loro bilanci. Anche in questo caso la dimensione è importante. Certo, non è tutto, ma se ben guidato un gruppo bancario forte ha delle chance più significative di sopravvivere all'era dei tassi sotto zero. E poi c'è un altro aspetto che insomma anche come utenti, no, degli istituti di credito dovremo tenere presente, cioè le tecnologie che porteranno a un cambiamento rivoluzionario, no, nel sistema di fare credito, di fare banca. Siamo in attesa di vedere l'effetto che le tecnologie propongono anche sull'occupazione nelle banche. Cosa pensi che succederà? Succede che c'è un mondo bancario che sotto certi aspetti assomiglia un po' al mondo dell'editoria, nulla è come è stato in passato, e quindi l'irruzione sulla scena delle nuove tecnologie, dei social media, ha cambiato il mondo. Ha cambiato il mondo per noi giornalisti, ha cambiato il mondo anche delle banche. Occorrono investimenti massicci, occorre riconvertire delle professionalità. Faccio un esempio che non è proprio del mondo bancario, ma è di un mondo affine, il mondo assicurativo. Ho partecipato ieri a un grande convegno a Torino sul Venture Capital. Il presidente delle Generali ha detto: noi ci apprestiamo ad investire 1 miliardo per cambiare il modo di fare assicurazione tenendo conto delle nuove tecnologie, dell'innovazione tecnologica. Ecco, investire 1 miliardo non se lo possono permettere le società con una taglia medio-piccola. Questi investimenti sono importanti per far crescere il sistema, non soltanto delle assicurazioni, ma anche in questo caso delle banche. Certo, se l'operazione andrà in porto, ma ci sono tutti i presupposti affinché vada così, il sistema si arricchirà di un grande gruppo bancario che avrà delle carte in più da giocare anche sul fronte dell'innovazione tecnologica. E non dimentichiamoci che a margine di questa operazione c'è un'altra banca importante che cresce, è la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, che piglierà, da quanto si è capito, 500 sportelli ex Banca UBI. E quindi è un'altra banca che cresce, ed anche in questo caso non può essere che un segno positivo per l'intero sistema, per l'intero paese. Grazie Fabio Tamburini, grazie direttore. Grazie direttore. Noi ci sentiamo giovedì nella rassegna stampa alle 7.45. Adesso una pausa, ci ritroviamo subito dopo e passiamo alla politica con Ettore Rosato di Italia Viva. Mattino. Ed eccoci con Ettore Rosato, presidente Italia Viva, vicepresidente della Camera. Buongiorno Rosato, eccoci. Buongiorno a voi. Buongiorno Ettore Rosato, lei ha il volto simpatico della politica, sarà anche che appunto ha sempre delle battute. L'altro giorno quando le hanno chiesto, dice: ma c'è una crisi? E lei ha risposto: ma no, è una crisetta. Quindi diciamo che ha che è il volto simpatico, ironico di una politica che spesso non ha questo dono. Però le devo chiedere una cosa che si chiedono in tanti. Sei mesi fa Matteo Renzi ha lavorato perché nascesse il governo Conte bis, no? E si evitassero le elezioni dove tutti temevano avrebbe vinto Salvini. Ora non solo la stampa che titola oggi Renzi Salvini un governo dopo Conte e parla apertamente, il titolo di apertura della prima pagina, un giornale serio come la stampa non lo spende in vano, parla apertamente di un patto segreto tra Matteo Salvini e Matteo Renzi per mettere in difficoltà il governo Conte, cioè lo stesso governo che Renzi ha fatto nascere 6 mesi fa. Ma anche Lina Palmerini, serissima editorialista del Sole 24 Ore, scrive: Matteo Salvini ha bisogno di chi all'interno della maggioranza lavori per aprirgli una breccia verso le urne, anche se non domani. Ora io le chiedo, con tutto quello che c'è da fare, no? C'è un'agenda per il 2023 che, come cita sempre il Sole 24 Ore, è ferma. Vi pare il momento di pensare agli interessi particolari di Italia Viva per cercare di essere, come dire, protagonisti? Non sarebbe più opportuno, come dire, lavorare insieme per il Paese? Assolutamente sì, ma infatti non stiamo pensando, intanto buongiorno, non stiamo pensando agli interessi di Italia Viva, guardi, confermo la serietà della stampa e della collega di Dina Palmerini, però la ricostruzione sono sbagliate, noi non stiamo lavorando per fare un governo con Salvini, noi stiamo lavorando perché questo governo lavori, cosa che non è tanto semplice, ve le dico, non è che alziamo la voce a caso. Quando abbiamo alzato la voce, qualche volta venendo ascoltati, altre volte no, è stato semplicemente per far mettere in guardia su errori che il governo stava facendo, anche grandi. Ricordo uno per tutti, l'aumento dell'IVA. L'ultima volta che si sono sentiti Conte e Renzi, scherzando, Renzi lo racconta, perché Conte gli ha telefonato per chiedergli se poteva aumentare l'IVA e noi abbiamo detto di no, così come abbiamo detto di no all'aumento delle tasse in continuazione sulla manovra finanziaria. Le ricorderete le polemiche. Rosato, ma non si può andare avanti a dire no, perché se no fate esattamente il gioco che fa comodo a Salvini, cioè fate l'opposizione all'interno del governo. Il governo non può varare nulla perché si blocca. Ieri siete stati d'accordo con l'EU per la questione dei decreti sulla sicurezza. Tra qualche giorno probabilmente voterete insieme a Forza Italia e alla Lega per la questione delle intercettazioni, sulla legge delle intercettazioni. Non è una ricostruzione corretta, perché purtroppo noi diciamo no all'aumento delle tasse, perché c'è qualcuno che pensa che in questo paese ci sia bisogno di aumentare le tasse per fare il tasso. Io sto parlando dei decreti sicurezza, ieri siete stati insieme all'EU, la sinistra estrema. Ma si figuri se noi facciamo i decreti sicurezza insieme all'EU, noi abbiamo fatto un tavolo insieme a tutte le forze di governo e il fatto che l'EU abbia detto che abbiamo ragione su alcune cose non è un fare i decreti sicurezza con l'EU, i decreti sicurezza verranno rifatti insieme a tutta la maggioranza. Peraltro, per chiarire la posizione sui decreti sicurezza, visto che sono stati citati, io sono contro quelli che dicono che bisogna cancellare i decreti sicurezza. Nei decreti sicurezza ci sono tante cose utili, come le assunzioni di un pezzo di forze di polizia, non vanno cancellati, vanno modificati, a cominciare dalle cose che ha detto il Presidente della Repubblica. Su quei decreti lì ci sono delle cose che non stanno in piedi, assolutamente non stanno in piedi. Poi c'è stata una politica di cattiveria messa in campo da Salvini, che è stata cambiata dal Ministro Lamorgese. Punto, chiusa la discussione. Infatti ad oggi non si parla più di sbarchi, o se ne parla in maniera minimale, così come deve essere in un paese normale. Il problema di questo governo non è Italia Viva, il problema di questo governo è cosa fa, perché lei diceva nella sua giusta introduzione che questo paese resta fermo. Ecco, questa è la nostra preoccupazione, quello su cui abbiamo alzato anche il tono con il presidente Conte, e rivendico il fatto che lo abbiamo alzato. Qual è la nostra risposta alla crisi economica, alla recessione che colpisce l'Italia? Non può essere il nulla, non può essere l'inerzia. E abbiamo proposto di fare un provvedimento shock per sbloccare i cantieri, quindi cambiare le norme, nominare dei commissari per far ripartire le opere pubbliche in questo paese. Ci si è detto che bisogna fare una riunione di maggioranza, la stiamo aspettando. Quando arriverà questa riunione di maggioranza, noi diremo che c'è bisogno di un intervento urgente, urgentissimo, immediato. Allora, fatto per Rosato, tante cose. Rosato, mi studi, la fermo un attimo, ci prendiamo una pausa e poi ho una domanda esattamente sulle questioni concrete. Mattino. Oh, io devo dire la verità, non è che veda tanto un tema Italia Viva quanto un tema maggioranza, cioè la questione, Rosato, mi sembra che siete imballati complessivamente, poi che voi poniate le vostre questioni, il Movimento 5 Stelle ponga le sue. L'esempio è quello dei decreti sicurezza, ma possiamo andare avanti sul tema dei dossier economici. È un altro conto. Mi sembra che qua ci siano delle visioni divergenti, per esempio sulla politica economica, per esempio sulla politica fiscale, che sono oggettivamente difficilmente conciliabili. Questo è il punto vero. Le differenze che c'erano dall'inizio si sono manifestate e si continuano a manifestare. La nostra proposta è di scegliere quelle questioni su cui questo paese ha grande urgenza e non sono divisive. E ce ne sono di questioni su però cui Rosato, mi scusi, quelle non divisive sono quelle che non smuovono niente generalmente. No, questo è un rischio vero. Per questo noi abbiamo chiesto, tolto il tabù dell'alta velocità che si sta realizzando, perché poi tolto il tabù del TAP che si sta realizzando, e quindi avendo tolto il tabù del bloccare le opere pubbliche, proviamo a fare una cosa che in tutti i paesi del mondo, in qualsiasi epoca, ha funzionato: sblocchiamo le opere pubbliche, quelle che servono, e facciamo ripartire l'economia. Mi scusi, ma è esattamente quello che dicono tutti, cioè abbiamo avuto qui esponenti del Partito Democratico, a cominciare dalla ministra De Micheli, che hanno detto esattamente la stessa cosa. Infatti, ma allora siamo contenti, per quello che sì, dicevo, però poi litigate e bloccate le cose, no, pure voi. Ma non è vero, per questo le ho detto, cerchiamo le cose che uniscono e non le cose che dividono. Una di quelle che può unire, e noi siamo lì a chiederlo da mesi, anzi all'inizio ci è stato detto che non è vero che ci sono i soldi, poi oggi li hanno ritrovati tutti, compreso il Premier Conte andando a presentare il piano, il cosiddetto piano per il Mezzogiorno. Andiamo a lavorare sulle cose che ci sono. C'è un punto di convergenza sullo sblocco delle opere pubbliche, andiamo. Il ministro Gualtieri ha convocato un tavolo sulla modifica e sulla revisione delle politiche fiscali. Noi ci siamo lì, ci sono anche gli altri partiti, mi sembra che questo tavolo stia producendo delle ipotesi ragionevoli su cui c'è un'intesa, una possibilità, un percorso della maggioranza di andare a rivedere lo sblocco, la revisione del sistema fiscale in questo paese. Proviamoci. C'è il tema della semplificazione che tutti dicono, che tutti citano. Noi durante il nostro governo ne abbiamo fatto ad alcuni pezzi, ce ne sono tanti altri da fare. Proviamo a lavorare su questo. Però Rosato, allora, finché siamo sui temi generali, no, va tutto per carità, cioè ci possiamo dire tutto il contrario di tutto. Si fanno i tavoli di maggioranza, ci si riunisce, per carità. Poi però bisogna andare sulle singole cose. Allora uno dice: sblocchiamo le infrastrutture, e la Gronda di Genova che cosa facciamo? Cioè, se i 5 Stelle non ci stanno, che cosa succede? Capisce che poi ogni singolo dossier, una volta spacchettato, rischia di diventare un problema. Non è molto diverso dalle tensioni che hanno attraversato il governo precedente, giusto per chiarire, perché no, è questo. Per chiarire, io penso che noi purtroppo, per adesso non è che riapriremo quel fascicolo lì, però è un paese che viene governato con un sistema, con il nostro sistema istituzionale, dove con due camere, dove tutte le questioni che abbiamo affrontato durante il referendum, richiederà sempre composizioni di maggioranze così. Non è che si risolve con qualche legge elettorale, bisogna risolvere con un sistema istituzionale diverso. Ahimè, siamo andati in una direzione diversa da questo punto di vista. Dobbiamo imparare a costruire maggioranze che lavorino insieme. Guardi, sul futuro si fanno tante ipotesi, e una delle ipotesi è che in futuro, dopo una campagna elettorale e dopo le elezioni politiche, Italia Viva magari possa anche allearsi con la Lega. Questi sono tutti scenari che adesso non contano perché sono chiacchiere, però magari tra 2 mesi o 3 mesi potrebbero essere realtà. Invece io vorrei la sua opinione, proprio tra 2 mesi, tre mesi, le assicuro, se lo annoti sul blocchetto davanti a lei non succede niente, staremo qui a continuare, spero, facendo qualche passo avanti con questo lo sperano governo. Anche gli italiani, guardi. Comunque non abbiamo bisogno del blocchetto, perché questa roba è registrata e poi semmai, poi semmai la riproponiamo. Maria, prego. Volevo chiederle che cosa pensa della polemica che in questi giorni ha riguardato ancora una volta Matteo Renzi. Stamattina c'è un ampio articolo sulla Verità, ma ne parlano un po' tutti i quotidiani, perché Matteo Renzi è stato invitato da questa azienda di intelligenza artificiale Affinity in un incontro vacanza con elicottero sulle nevi in Pakistan. La questione che ha suscitato polemica è che, mentre altri, per esempio Aznar come politico, è fuori ormai, no, dalla politica attiva, è soltanto un ex presidente, Renzi è ancora un politico attivo, e ci si è chiesto se è opportuno che partecipi a questo genere di incontri, dal momento che poi questa azienda lavora con grandi aziende pubbliche, o lavorerà con grandi aziende pubbliche italiane, perché di quello vive, di contratti. Lei che ne pensa? È stata una polemica pretestuosa, o sarebbe stato opportuno non partecipare a questo evento di vacanza? Guardi, Renzi riesce a mettere d'accordo tutti, perché se stava qui a lavorare ci sarebbe stata una polemica: ma perché non te ne vai da qualche altra parte, così non disturbi? quindi Renzi da questo punto di vista riesce sempre a polarizzare le polemiche. Io penso che Matteo Renzi è uno dei pochissimi politici italiani che viene chiamato in giro per il mondo, perché evidentemente è un dato di fatto, quello che dice interessa quando si va in giro per il mondo, altri non vengono chiamati. Che siano incontri organizzati da aziende, quindi tutta invidia, tutta invidia, Rosato. Scusi, anche Enrico Letta, Enrico Letta viene, mi perdoni, Enrico Letta, Enrico, stai sereno, viene chiamato in tutto il mondo, solo che non è più in politica attiva. Qui il punto, la domanda è: un senatore che è in servizio per la Repubblica può partecipare a questi incontri dove di solito partecipano solo ex politici? Ma di solito partecipano ex politici, c'era il presidente del Pakistan e c'era il primo ministro del Pakistan, quindi non era di solito, perché non è così. Perché sono Beh, quelli fanno l'interesse del loro paese, quello si capisce. Certo, ma anche noi facciamo l'interesse del nostro paese. Se arriva un'azienda, sa come abbiamo portato Apple qui? Con i rapporti personali di Matteo Renzi, che avendo rapporti personali con la Apple, li ha convinti ad aprire la loro università a Napoli, ma con i suoi rapporti personali. Se questa azienda decidesse di venire a investire in Italia, perché Matteo Renzi la convince che l'Italia è un buon paese in cui venire a investire e che hanno dei rapporti dove possono venire a sfruttare fondi per il Mezzogiorno, facciamo un affare. E quindi io credo che i rapporti dei politici con le grandi aziende multinazionali siano rapporti utili, se uno li gestisce in maniera pulita e trasparente, come Renzi ha sempre fatto, perché lo ha sempre detto, non è che ha nascosto il fatto che parla con il CEO di Apple o il CEO delle grandi multinazionali, lo dice e le sfrutta per aiutare il nostro paese a far ripartire l'economia. Rosato, Rosato, abbiamo 20 secondi, una battuta in risposta ad una battuta di un ascoltatore che dice: ma a questo punto non era meglio un bel contratto di governo come quello della maggioranza precedente? Ma i titoli non cambiano la sostanza, il contratto di governo ha dimostrato che è fallito nelle beghe, noi speriamo di non fallire nelle beghe. L'importante è che il Presidente del Consiglio faccia la sua parte, e il Presidente del Consiglio ha l'onere di tenere unita la maggioranza, faccia questo e sono sicuro che le cose andranno avanti in maniera migliore. Ma voi lo volete cacciare Conte da Palazzo Chigi? È lui che sta tutti i giorni cercando di trovare una maggioranza alternativa, ahimè non ci riesce, ma le richieste che arrivano ai senatori di formare il gruppo del presidente Conte mi sembra che siano all'ordine del giorno, non sono mai state smentite, tra l'altro legittimamente, è una legittima dobbiamo chiudere. Grazie a Ettore Rosato di Italia Viva. Buona giornata, ci sentiamo domani, ciao.